Mamma vai. Andare a Ma Gabriele, la ragazza prima a Sassari, poi a prendersi un pullman, che ci ha lasciato a Torres, adesso vediamo, credo fra una decina di minuti. Sì, e io sono rientrato, ero in garage che ho aperto un Lincoln e gli stavo rifacendo qualche saldatura che ha da rifare qualcosa, e una manutenzione, una piccola manutenzione. E niente, ho passato la serata, dovevo farlo perché mi accorgevo che c'era qualcosa da rivedere, qualche roba di giura, mi sembra. Me Nicolas mi ha chiesto se gli avrei piazzato il gioco. Non l'ho piazzato, devo prendere il mouse, aprirlo e mettergli quella mollettina. No Nicolas, non l'ho piazzato ancora, è qua. Infatti mi ha chiesto, ma non lo piace, devo mettere la mollettina. Ok, ho tolto il processore. Guarda, vai a vedere se è meglio. Sì, molto meglio. Stava andando a trappare. Sì. Va bene. Guardate che sia un pochino forte così. 9.25 ora. No, la radio, dove si presenta la radio? Forte, ho abbassato il volume. Yes, va bene. Devo smontarlo quel joystick e mettergli quella mollettina. Però una volta che lo smonti poi ci devi stare appresso per i pomellini, le cose, per la gomma, quindi un po' anche di testa libera e farlo quando c'è l'ispirazione. No, tu dici per la mollettina, no, per il gioco è una spiaggia, è proprio così, elementare, anche bellino, divertente per i piccoli, Per i piccoli e anche per i grandi, anche io gubuleo, non è che non vi yucco, Però devo trovare il coso di aprirlo, sistemarlo e farlo, capito? Ho trovato anche la mollettina. Va bene per anche quella di qualsiasi, una mollettina per batterie, basta, chiaramente. Se rientro presto domani, orario recente, me lo apro e provo a farlo. Perché non è semplicissimo, Non è semplicissimo, devi prendere e richiuderlo. No, io non la vedo complicata, io la vedo più complicata invece se usi saldarlo, che mi sa che quella roba lì non salda, giusto? Esatto, non salda, quindi quello lì va messo quel rivetto fine, l'allora è quello lì, mettergli quel rivetto fine, poi stringerlo e richiuderlo, va fatto bene, dai, ci vuole un po' di pazienza. Bene, e che ci vuoi va, vabbè. Sì, dice ieri mio padre che stavo disturbando, ma in FM, ma in banda, sicuramente gli bloccava un po' la televisione. Ma secondo me l'antenna volesse averlata almeno anche di un metro, non fai più nulla. No, io adesso quando sarà devo vedere un pochino di comprare almeno un buon 100 metri di quella lenza che resista, perché credo che ci stia aprendo in due quella lenza lì, e ci sono i filettini che stanno mantenendo il cavo. Parlo dell'antenna TV io, eh? No, io parlo della filare. Quello lì, sì, ma senza prendere lenza, da bricoma costa 10 euro, il cavo per la mantovana, e ti dura, io ce l'ho già 3 anni. E cioè, qual è? Quello blu, il cavo blu, cavo per la nuova, che non è olio, se no te l'avrei dato, l'ho usato tutto. Cavo forte, fine, però è fortissimo. Non è nylon, proprio stoffa, tipo materiale tipo braga, però è fine. Ma io parlo per mettere in tira l'antenna. Per mettere in tira la mantova, così è? No, per mettere in tira la filare, perché si sta deteriorando la lenza che abbiamo messo. Ah, ok, ma quello aveva la carrucola. E allora? No, i bracci dell'antenna, quello che abbiamo legato all'albero, la cosa, si stanno rompendo. Quello della veneziana, va bene, tipo rimane fatto tipo sagolino da muratore, per tipo lenza da muratore, però è molto più resistente. Sì. Ah, non lo so, non l'ho mai vista. Quella che ho io, te l'avevo fatta vedere pure. Ma boh, non mi ricordo. Perché prendere la lenza da muratore, anche quella grossa, visto nel lungo del tempo, poi si secca, l'umidità, quello e quell'altro, e si marcisce. Io ce l'ho già 3 anni, sì. Io ce l'ho già 3 anni ed è sempre perfetta, perché è fatta in stoffa, cioè è tessuto, mi segue, non è plastificato. Ho capito, va bene. Ascolta, io devo prepararmi, dai, che devo uscire. Al limite quando rientro ti faccio una chiamata. Sono a casa e fai chiamata, già, dai, c'ho questo acceso e neanche là. E sono anche giù, dove eravamo ieri notte. Ok, a dopo, ciao. Via, andare, ciao.